E ora. Legge Tasso. I miei capelli non sono miei, il mio sangue non è mio, la mia vita non è mia. Io non sono un essere libero, sono un prigioniero politico, rinchiuso in una riserva di caccia del Nord America. I miei capelli sono lunghi, sottili, fragili e arruffati. Li pettino con l'acqua piovana e la disperazione. Sono in attesa e non sono in attesa. Sono in riposo e sono senza riposo. Tutto ciò che sono, non lo sono. Mi avvolgono bassi rovi pungenti. Quando ero giovane ci saltellavo in mezzo. Ora sto a sedere e basta. E invece no. Molto spesso non mi limito a sedere e basta. Percorro i confini. Le frontiere sono pattugliate, oppure non lo sono. Ciò però non ha alcuna importanza dal momento che non mi provo mai ad attraversarle e a rischiare la vita. Così stanno le cose, così devono stare. Qui devo sedere, in solitudine, e quando piango cade la pioggia, quando sospiro e le mie lacrime si asciugano, si alza il vento. Quando sorrido si inargentano le nuvole, la foschia si fa intollerabilmente luminosa e brucia gli occhi. Ma il sole non spunterà lo stesso. Faccio musica, faccio canestri, canestrelli, faccio amicizia con gli uccelli, gli insetti e i roditori. E vivo in solitudine, in solitudine. Solitudine, la mia presente solitudine ha una ragione. E la ragione è che questa condizione non durerà per sempre. Qualcuno verrà. Qualcuno verrà già a sapore i suoi dolci passi. Ho paura. Egli spezzerà la salda superficie del mio specchio. Pure sta arrivando. Arriverà al suo interno e lo attraverserà. Già dal momento della sua nascita egli sta arrivando. Ho visto la sua incoronazione nella magia di una fiamma, la fiamma di una candela che facevo bruciare un'unica volta all'anno, per quel momento soltanto. Quando guardo nella fiamma, posso vedere distintamente ogni movimento che egli fa in quell'istante. E ora gli si avvicina, più rapido degli anni. Io sono il falcetto, il corvo, la gazza che abita una terra di spettri. Fui io a incidermi sulla fronte lo sfregio della Margherita. Sì, sul mio volto marchiai la mia dolorosa potenza, rifiutando di mantenere il mio posto nel 99% tra tutti quelli che sono intatti e perfetti fin dal concepimento. Come avrei potuto non farlo? Come avrei potuto volgere le spalle a coloro che erano stati resi deformi dalla negligenza o rachitici da un proposito, agli esseri trastullo che abbiamo imparato ad allevare come animali domestici? Il volere dello Stato genera automaticamente un controvolere. È la stessa mano dello Stato a staccarsi da sola dal braccio. Mi avevano programmato per essere un ideatore, un modellatore di forme degradate di vita umana. È un ricordo crudele. All'epoca la mia vocazione mi appagava, studiavo, concepivo teorie e mettevo in pratica. Piano piano, fra di noi il processo è prolungato artificialmente, mi arrotondai. Giunsi alla maturità fisica e di sentimento. E ormai mi avvicinavo al tanto sbandierato perielio della mia vita orbitale, età adulta. Secondo le migliori tradizioni, intrapresi il lungo e paziente lavoro atto a garantirmi una posizione nell'esoscheletro sociale. Ma negli ultimi anni il mio lavoro era giunto a una svolta sorprendente. Integrare funzionalmente i tratti delle specie inferiori nei miei soggetti non mi soddisfaceva più. Sebbene seguitassi a prendere molte ore e a spenderle qui nel mio selvaggio dominio privato, non producevo più uomini lepre o donne pernice. Queste cose mi erano diventate sin troppo familiari, eppure non potevo risolvermi a passare dall'arte all'utilitarismo, a porre le mie capacità direttamente nelle mani del governo. Anziché analizzare il mio disgusto per giungere all'inevitabile conclusione che qualunque sorta di manipolazione genetica è uno sfruttamento, mi spinsi più a fondo nel settore che mi ero scelto. Speravo che creazioni meno trite e banali mi procurassero elogi e sostegno finanziario. L'ispirazione mi venne da antiche storie di esseri impossibili, donne pesce, tritoni, ermafroditi alati. Queste erano figure comuni, ma fui io a inventare lo sfiatafuoco loricato, la donna unicorno, l'uomo invisibile. Poi superai me stesso. Iniziai a creare dei. Il primo fu Cupido. Quanto mi tormentò prima che lo lasciassi. Vulcano si innamorò di me a prima vista. Aveva piazzato la sua fucina nel seminterrato e non voleva saperne di andarsene, assediandomi intanto con regali, anelli fatati e mirabili vascelli tascabili con infinite aperture. Creai Minerva come consulente, e lei mi consigliò di non fermarmi fino a quando non avessi revocato l'intero Pantheon, se non volevo seminare la distruzione in seguito agli squilibri karmici. Non potevo dissentire dalla saggezza in persona, per cui uno dopo l'altro li liberai tutti nel mondo, le litigiose, autocratiche deità dell'Olimpo. Psiche fu diversa. Forse perché su di lei avevo speso più tempo, visto che volevo che rappresentasse l'apice della mia competenza. Gli altri erano sovraumani, proiezioni ingigantite di porzioni della mente collettiva, ma sembrava che Psiche dovesse essere il distillato, l'essenza dell'umanità. Su di lei il mio lavoro fu minuzioso e io neppure mi resi conto pienamente delle implicazioni, fino a quando ella non ebbe aperto i suoi incredibili occhi fiammeggianti, che concentravano su ogni cosa la luce di una verità troppo luminosa, mi rivelarono il mostro che ero. La implorai perché mi procurasse una ferita che mi facesse gemere, una stilla d'olio bollente sul viso. Ella rifiutò con orrore. Fu così che le strappai il coltello e con quello mi incisi una stella sulla fronte. Allora lei rise, mi benedì e comprese. Il tocco delle sue mani splendenti mi guarì e accese di fuoco il segno della mia ferita. Poi se ne andò, mutando il mondo a ogni passo dei suoi piedi nudi e modesti. Io rimasi, immobile, in mezzo ai resti delle mie rivoltanti opere e al frenetico frastuono degli dèi. Ma prima che i miei colleghi giungessero e mi trovassero in questo stato, prima che rendessero la mia solitudine definitiva grazie ai marchingegni di quel fabbro scellerato, ebbi il tempo per un'ultima impresa. Mi limitai a creare il seme. Ma gli diedi modo di crescere in un grembo adatto. Piantai il seme del rosso giudizio, il gran bracco del fabbro, Kunchullain. Ed egli sta arrivando. Era un giovane ingegnere genetico, di Denise Angela Scholl. A letto, tasso.